com'io, come perde potente la tua virtù. Se non bevuto ancora di tanta gioia già mi volvi in me. Ma perché mai l'affatto non ne posso io vedere prima che un giorno intero non sia trascorso? Beva, sì. Oh, quanti vena in vena, dolce calor di sponde, ma forse anch'essa, forse la fiamma stessa, incomincia a sentire. Certo la sente, me la giunzia la gioia e l'appetito, che in me si risvegliò tutto d'un tratto. Apprezzia dei miei sospiri.